Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Oggi copertine ed effetti speciali non servono, perché la copertina e l'effetto speciale è quello che abbiamo davanti, è il luogo in cui siamo, Radio City Milano, Piazza Gaia Aulenti, Pavilion Unicredit, il mondo della radio, tutto il mondo della radio è dentro qui. Adesso comincio a fare il butta dentro, ragazzi, voi da là in fondo venite, venite a partecipare a tutti i convocati, perché oggi convocazioni face to face, non soltanto al telefono, che pure vale 800 24 00 24, è il numero verde. È un piacere finalmente parlare guardando negli occhi, non solo attraverso il vetro, il mio autore Giorgio De Luca o il mio regista Gianmarco Ferronato, ma parlare di sport, di calcio, del sorteggio che c'è stato, della Juventus in odore di triplete, e poi dopo le 15 di motori, Formula 1, Moto Mondiale, con altri ospiti che arriveranno qui, è un piacere farlo finalmente, concedetemelo, dopo tanto studio all'aperto in un luogo meraviglioso e guardandovi negli occhi. Faccio passare il microfono, quindi le convocazioni le faccio da qui, anche persona per persona, se non avete il coraggio di intervenire. Vengo io, Giovanni Capuano. Ciao, quelle in fondo della domenica. Sono tutti i tifosi della Juve in fila per prendersi il biglietto per la finale. Non ho capito. Perché noi vogliamo dirlo, sono tutti i tifosi della Juve, quelli là in fondo, perché là vendono i biglietti della finale di Cardiff. Vendono i biglietti della finale di Cardiff là in fondo. E io voglio che qualcuno alzi la mano se ha il coraggio di dire che la Juve è andata male. Alla Juve è andata male? No, nessuna risposta. Allora, Juventus che prende il Monaco con la prima partita che si giocherà nel Principato di Monaco. Cosa volete di più? Una che ha alzato la mano. No, allora, colgo l'occasione. Sorteggi, dunque, Juventus-Monaco e poi il solito derby di Madrid, il ciolismo proletario contro l'imperatore Real Madrid. Colgo l'occasione per presentare e ringraziare due personaggi che conoscete certamente non solo in voce ma anche in video, ma ormai copia di fatto, come me e Pardo, che arriverà più tardi, ovviamente radiofonica e televisiva, un grande classico dell'erotismo calcistico milanese, Franco Ciccioordine dal Giornale. Ciao Franco. E poi Fabrizio Biasin da Libero, il tuo interlocutore preferito. Vi abbiamo messi lontani apposta. È gradito anche qualche fischio per Biasin. È gradito qualche fischio per Biasin. Non c'è problema, poteva andarmi meglio come coppia di fatto, mi tocca ordine. Allora, partiamo da qui, partiamo da questo sorteggio. Allora, sarà il Monaco... che non ha nulla da perdere, che è leggero, che ha un potenziale fuori classe come Pepe, di cui si parla tantissimo, e il nostro comune amico Paolo Condome sono nella lista dei prossimi califfi del calcio mondiale. Una squadra fresca, veloce, classico underdog, però sempre meglio farsi una gita al Principato. Adesso vi prendo il giorno, mercoledì 3 di maggio, e poi tornare a Torino con calma, magari anche dopo qualche giorno di vacanza, martedì 9 maggio per il ritorno, mentre in Spagna sarà battaglia furibonda. Ditemi subito la vostra, comincio da Franco Ordine. La mia è questa. Se ci fosse stata una manina, come dire, divina per... Stai parlando di palline scaldate? No, per apparecchiare il sorteggio ideale per la Juve usciva questa. Quindi io credo che al di là di tutte le bla bla, sì, il giovane, sì, non ha niente da perdere, cioè, sono tutte storielle da raccontare ai bambini la sera prima che vadano a letto. La verità è che qui a questo punto è spalancata l'autostrada per Cardiff. è spalancata l'autostrada per Cardiff. Sei d'accordo? Sono curiosamente d'accordo con Franco, cioè da mercoledì sera ore 22:40 tutti quanti in maniera un po' snob dicono attenzione al Monaco che è la squadra da temere di più. Non è vero, Monaco è una squadra con delle punte ma anche tanti difetti, ha una difesa composta anche da giocatori che conosciamo perché li abbiamo visti nel campionato italiano. Di sicuro la Juve poteva andare peggio, però devo dire che io sono convinto che a Madrid siano contenti di non aver pescato la Juve, che in questo momento è la squadra più in forma in assoluto. Giovanni, io non so se a Madrid sono contenti ottimismo di essersi pescati, però io mi metto nei panni dei tifosi dell'Atletico Madrid che sono reduci dalle due beffe delle due finali. Poi magari esce la rivincita, esce quella cosa che cancella tutto, però io penso che avrebbero scelto volentieri anche la Juventus e ovviamente il Monaco piuttosto che andarsi a pescare ancora una volta il derby. E io dico una cosa in maniera molto sintetica: quando tu fai una semifinale di Champions League contro Glick e Raggi non puoi dire che ti è andata male. Perché Glick e Raggi sono due giocatori che conosciamo benissimo e sono due giocatori che in Serie A non starebbero probabilmente dentro squadre che lottano per un posto in Europa League. Glick ha giocato nel Toro, Raggi è un po' di anni che è fuori ma lo conosciamo, quindi io capisco che poi da qui al giorno dell'andata ci impegneremo tutti a dipingere il condivido Monaco solo su come Raggi, il peggiore degli avversari. Solo su Raggi condivido, perché Glick obiettivamente è di grande valore. Il problema vero, secondo me, la ciliegina sulla torta, secondo me, sai qual è? Sai, dimmela. Che il derby di Madrid finisce che passa questa volta l'Atletico. Una zecca, una previsione dall'84 ordine. E io ho subito individuato il primo grande pericolo per la Juventus, cioè il discorso che stiamo facendo. Esatto. Franco Ordine che mi dice autostrada verso Cardiff, un posto più infelice per giocare una... Sì, dove non c'è nessuna autostrada da... Non c'è nessuna autostrada perché esatto, bisogna andare a Londra e poi arrangiarsi ad osso. E poi arrangiatevi come potete. Arrangiatevi come potete. E questo ottimismo e questa... Adesso, al di là, Carlo, al di là delle battute e del paradosso, l'ottimismo secondo me deriva da questo, e cioè dal fatto che la squadra lentamente, passo dopo passo, metro dopo metro, è cresciuta in questa Champions. Nel campionato ha sempre avuto più o meno la stessa traiettoria, ma in Champions è cresciuta in maniera esponenziale. E soprattutto quello che mi ha dimostrato nella partita di Barcellona, al di là del risultato e al di là della tenuta da trincea di cemento armato, la personalità, quello, certo, quello ha. E quando tu hai questo tipo di performance e questo tipo di prestazione dal punto di vista complessivo, secondo me quello che non valutiamo del Monaco sarà proprio questo, e cioè il famoso miedo escenico che si attribuiscono alle squadre che vanno al Bernabeu, secondo me sarà l'effetto che produrrà la Juventus contro il Monaco. Siete d'accordo, ragazzi? Ma sono assolutamente d'accordo, bisogna fare i complimenti anche in maniera molto retorica, però doverosa, a Massimiliano Allegri che anche quest'anno è riuscito a fare un piccolo capolavoro. A gennaio ha cambiato assetto tattico alla squadra per trovare posto a Mandzukic, non l'ha più cambiato e ha costruito un piccolo capolavoro, una squadra che non prende gol pur avendo una propensione offensiva incredibile. E io credo che questo sia veramente merito di un tecnico che tutti gli anni probabilmente non mette in campo il calcio più bello, ma sicuramente quello più fruttuoso. Ormai è un allenatore top mondiale, Giovanni Capuano mi è testimone. Io rimango convinto che questa Juventus sia nata come uno sberleffo, come una delle famose teste di Modigliani di Livorno. 800 24 00 24, siamo a Radio City, ma potete anche intervenire se volete per dire la vostra. Se la pensate in altro modo o se la pensate allo stesso modo, vabbè, intervenite, ma ci divertiamo un po' di gufare, meno. Se volete gufare. No, ma io voglio dire, Giovanni Capuano mi ha testimone, secondo me questa Juventus è nata come uno sberleffo contro la Lazio, partita interna della Juventus. Tutti convocati. tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Tutti convocati. Credo che questo sia un errore che la Juventus non farà, no, perché si è scottata troppe volte, e così come credo non farà mai l'errore in questa stagione, dovesse andare in finale contro qualunque avversario, di arrivarci come è andata nel 2015 a Berlino, cioè con l'animo leggero di chi sa che comunque vada a finire è stato un successo, perché a differenza del 2015 quest'anno, perché sia un successo, deve andare a finire in una certa maniera. Vogliamo dire tutti in coro che è stata, che è la grande favorita di questa Champions? Sì, no, ma è la favorita, lo dicono i numeri, fanno tutti sì con la testa. Giorgio De Luca, sì, anche lui dice che dice che non c'è il traffico, non però c'è il traffico. È tanto favorita che hanno cancellato anche il traffico. Hanno cancellato, vabbè, allora andiamo avanti. Facciamo passare un po' il microfono. Siccome c'è l'autostrada per Cardiff, siccome c'è l'autostrada per Cardiff, è il traffico di quelli che si stanno avviando verso Cardiff. È il traffico, esatto. Ma poi arriva anche Leo Turrini alla seconda parte con il traffico sulla Pero Cormano. No, perché hai fatto bene a sottolineare la punizione di Bonucci, cioè il castigo di Bonucci a Oporto, perché Massimiliano Allegri lì si è guadagnato la laurea. Sì, Franco, si è guadagnato la laurea, perché tutti dicono allenatore che ti conquista con il consenso, un allenatore all'Ancelotti, però anche Carlo Ancelotti, che tu conosci meglio di tutti noi messi insieme, è uno che quando deve tirar fuori il randello tira fuori il randello. Ma ti dirò di più, ma quale altro allenatore dinanzi a una sfida così impegnativa e tra l'altro così incerta, perché obiettivamente la Juve non sembrava nelle condizioni in cui è oggi, avrebbe rinunciato a un pilastro difensivo come Bonucci pur di far capire che in cima a tutto c'era la società e l'allenatore. Nessuno dei generali di campagna che circolano senza patente nel nostro campionato, e io dico che quella è stata obiettivamente la laurea e probabilmente anche lo snodo decisivo dal punto di vista psicologico. Tra l'altro Fabrizio, io ti chiedo una cosa del genere, cioè Bonucci in castigo sul Trespolo a Oporto, avremmo potuto vederlo in un'altra squadra italiana senza il supporto della società? Perché no, non è solo il valore del giocatore, è il fatto che Bonucci è una delle anime della Juventus, dei leader dello spogliatoio, se preferite del comitato che va, come sappiamo, va a parlare con gli arbitri, di cui si è tanto discusso, sì, sì, quando c'è qualcosa che non gira per il verso giusto. Non me la immagino in un'altra squadra, perché per fare una cosa del genere tu devi avere delle certezze, quelle legate al risultato, perché se la Juve non avesse vinto, non avesse passato il turno, quella sarebbe stata la tomba di Massimiliano Allegri alla Juventus. Invece lui si fida del suo lavoro, si fida della sua società e ha potuto fare questa cosa, e diciamolo, si è anche guadagnato una conferma che, per come vedo io, non è mai stata in discussione, ma qualcuno ha messo in discussione. Adesso tutti dicono Juventus e Allegri andranno certamente avanti insieme, ma ricordiamoci che 2 mesi fa si parlava di Spalletti e di altri 550 allenatori. Ma infatti sì, la vera notizia rispetto a quel periodo lì, quello della punizione di Bonucci, non è tanto che la Juve sia in semifinale di Champions, che se vogliamo era anche prevedibile perché la Juve era comunque una squadra forte, è che a febbraio si dava per certo che quello era l'ultimo shock che Allegri poteva dare nell'ultima stagione alla Juve. Tu dai quello shock lì, arrivi in fondo, ma ti sei giocato tutto e non ci sarà un futuro alla Juventus, comunque vada a finire, e tutti lo davamo per scontato. E io credo che in quelle settimane lì anche la Juventus e Allegri considerassero questa come prima opzione. Poi Franco fa sì con la testa, lui conosce bene Allegri, lo sente e sa insomma che la ricostruzione è abbastanza vicina alla realtà ed è questa. È così, è così. Oggi lo scenario è cambiato. Ciao ragazzi, ben arrivati. Oggi lo scenario è cambiato, ciao oggi Allegri è vicinissimo. Anche voi là in fondo che avete comprato i biglietti per la finale di Cardiff potete avvicinarvi. Ma c'è un microfono da far girare tra il pubblico? Esiste. Adesso lo recuperiamo. Oggi lo scenario, dicevo, è assolutamente cambiato. E quello shock lì probabilmente sarà stato semplicemente il passaggio di una stagione e non più l'ultima provocazione. Quell'Allegri lì ricordava Mourinho nell'ultimo anno dell'Inter. Alzo la manina. Che usava qualsiasi metodo pur di arrivare in fondo. Alzo la manina prima io. poi l'alzi tu e ti arriva un microfono. Alzo la manina. Siamo sicuri che Massimiliano Allegri l'anno prossimo allenerà ancora la Juventus? Chiedo a loro signori informati di aprire gli archivi di Stato e di raccontarci, perché so che lo sanno, come fu l'epilogo della stagione del triplete dell'Inter nei rapporti tra Mourinho e Moratti. Io... Silenzio di tomba in radio. Se volete, è una storia diversa questa. Io rispondo. Allora, io penso questo, che obiettivamente passata la bufera, appena c'è stata questa giornata di luce che ha illuminato completamente Vinovo e anche... Però altrettanto vero che Allegri nei giorni difficili non ha assolutamente scartato l'ipotesi di completare la stagione, anche se aveva ancora un anno di contratto, e di salutare la compagnia e di pensare all'altro. Sì, diciamo anche che la differenza con Mourinho è che Mourinho aveva un'alternativa di un certo tipo. Allegri probabilmente in questo momento non ce l'ha. Certo, c'è il Barcellona che deve scegliere, però dubito che il Barcellona ha già possa scelto. Andare. C'è il Barcellona, sì, c'è il Paris Saint-Germain, anche se il Barcellona ha una soluzione probabilmente... Il Barcellona sceglie, scusate, c'è il Paris da questo punto di vista il Barcellona è una garanzia. Il Barcellona in casa. Sceglie un allenatore che sia in sintonia col tipo di gioco che vogliono continuare a fare. Per cui da questo punto di vista Allegri secondo me non rientra nel novero di quegli allenatori, diciamo tra virgolette, in sintonia con... Per andare al Paris Saint-Germain io resterei a Torino, chi me lo io può anche fare? Io anche, tenuto conto che laggiù a Paris Saint-Germain c'è un grande estimatore di Allegri che si chiama Thiago Silva. Sì, però il problema è anche un altro, cioè se noi il 3 giugno raccontiamo il triplete della Juventus, poi Allegri resta perché questo è lo scenario che abbiamo disegnato e che si è disegnato in questi due mesi, però non è detto che sia la soluzione migliore, perché dopo il triplete solitamente non c'è un altro triplete. Prenderei Benitez in quel caso. No, possono prendere Benitez, poi andare avanti per tentativi, poi arrivare a Leonardo, poi Gasperini, e possono ripercorrere la strada dell'Inter. No, però io credo che in quel caso Allegri che resta deve fare un ragionamento con se stesso, con la società, con la squadra, perché forse si accelera la fine del ciclo della Juventus. E la seconda valutazione è che se oggi Allegri non ha un'alternativa in Europa di una grande panchina, ha bisogno di un procuratore. No, no, ma io dico, ha bisogno di un procuratore, perché è a impossibile parte che ce l'ha, oggi Allegri ha 6-7 allenatori, ce l'ha, ma uno bravo l'Inter, Pallavicino, ma certo l'Inter, che è bravo, però voglio dire, io non posso credere che un allenatore come Allegri in questa stagione resti alla Juve perché non ha un'alternativa. Allora resta Allegri, perché secondo me gli conviene restare, che il Milan ha cestinato Franco Ordine e che l'Inter sognerebbe Fabrizio Biasin. Sì, noi abbiamo altri problemi in questo momento. Oltre all'allenatore ci sono ben altri problemi in casa Inter, li conoscete meglio di me. In questo momento l'Inter deve pensare a una ristrutturazione a livello generale, che non significa dover cambiare giocatori e dirigenti, allenatori, ma probabilmente mentalità. Sì, questo certamente. Però quello che dico io è, se Allegri dovesse inchiostrare il triplete, a costo di andare insieme a Luis Enrique sulle spiagge di Gion a fare triathlon, io lascerei la Juventus, almeno questo è il mio pensiero, così come l'allenatore campione del mondo sarebbe un colpo da maestro, perché poi fare meglio è praticamente impossibile e devi gestire la ritirata. Bravo, devi gestire la contesto questa lettura, come se nel calcio una volta vinto non ci fosse un'altra sfida. È un'altra sfida anche magari anticipare di un anno la fine di un ciclo e ricominciare. No, più che altro non puoi neanche pensare di lasciare la Juventus a spasso subito dopo la vittoria. No. Cioè, comunque è una cosa che devi programmare con la società. Il 3 giugno è già stato fatto il piano per l'anno successivo. Quindi questo scenario è lo vedete come dico è realizzabile. Io, a me piacerebbe, perché sarebbe davvero da grande teatro calcistico, però credo che sia improbabile, anche perché, ripeto, la data impone, cioè quando siamo andati a fine maggio a Madrid sapevamo perfettamente che Mourinho il giorno dopo sarebbe partito. Esatto, quindi esatto. Il 3 giugno sapremo invece esattamente con precisione che Allegri resta. Ma magari però, anche con un rinnovo di contratto prima ancora della finale. Certo. Però qualcuno mi ha detto che tra Mourinho e Moratti il patto era chiaro già da tempo. Sì, sì, ma è, quindi ma è, si è, ma è così. È stato una sorta di teatrino, no? No, più che un teatrino, non potevano dare in pasto al pubblico un accordo di questo genere. Fu un patto da gentiluomini il quale Mourinho, che non poteva dire no al Real Madrid, e Moratti sapeva, perché siamo già nel 2010 e siamo già alla immediata vigilia della decisione di Massimo Moratti di dismettere l'Inter. Sì. Quindi sapeva che non avrebbe più potuto continuare su quella strada. L'unico errore commesso che Massimo Moratti adesso fa fatica a riconoscere, ma riconosce, è questo, che quando c'è stato, dopo la finale di Madrid, quando c'è stata la rincorsa dei grandi protagonisti della finale di Champions a ottenere rinnovi di contratto con l'aumento sostanzioso, lì avrebbe dovuto fare grande resistenza. Invece lì, per riconoscenza e temendo la sollevazione popolare, ha ceduto e lì si è imbarcato in un'avventura economico-finanziaria disastrosa. Disastrosa, che ha messo una pietra al collo all'Inter. Sacchi non ha evitato di non ha fatto mancare la sua puntura di spillo a Massimiliano Allegri, sì, in maniera, diciamolo, abbastanza inopportuna, perché dopo una partita come quella di Barcellona, sicuramente non la partita più bella dell'anno, soprattutto dopo quella che abbiamo visto a Madrid il giorno prima, però la Juventus deve raggiungere degli obiettivi, deve aprire la bacheca, non deve in questo momento illuminare il mondo con il suo gioco. Sacchi, tutti quanti noi ci inchiniamo di fronte alla saggezza e alle parole di Sacchi, però anche lui deve capire che A, il mondo è cambiato, B, il Milan degli olandesi uno è stato e non tornerà più, e C, a Torino hanno una necessità, non solo quella di vincere, ma anche quella di guadagnare. La Juventus, con il passaggio in semifinale, mette in tasca un centinaio di milioni, e non sono pochi. No, ma non è questo. Io su questo invece sono molto più laico, e cioè io mi batterò con tutti i miei mezzi perché ad Arrigo venga riconosciuta la libertà di esprimere un dissenso stilistico su come ha giocato la Juve la partita, perché lo ha espresso anche in altre circostanze e per altre squadre. Il problema lì è: esistono più strade per arrivare al successo. C'è chi batte la strada che ha battuto Arrigo e che sarà probabilmente irripetibile, che è stata poi prima ancora dall'Ajax e poi dal Barcellona di Guardiola, e chi invece ha battuto la strada dell'Inter di Herrera, dell'Inter di Mourinho. Però Franco, il rischio concreto è che Allegri tra qualche anno sarà un mister molto più vincente di Arrigo Sacchi. Sì, ma io sul vincente poi dobbiamo misurarci, faremo delle... No, la parabola di Sacchi è stata relativamente rapida, relativamente veloce, no? Non è che ha allenato per molti anni alla fine. Appunto, comunque voglio dire, quella lì, quella contabilità conta comunque fino a un certo punto, perché Arrigo avrà vinto poco in Italia, ma ha stravinto in Europa, è arrivato con quella nazionale a giocarsi ai rigori il mondiale contro il Brasile. Quindi non è questo in discussione. Io dico soltanto, e ho suggerito a Max domani di non cadere nel trappolone, di mettersi a discutere, così come ha fatto oggi Galeone. Berlusconi diceva che non capiva niente. Quella era una battuta fatta in un contesto allegro e scanzonato, non c'entrava niente. Però Berlusconi, voglio dire, Allegri è rimasto 4 anni a fare l'allenatore del Milan. A un certo punto era convinto veramente, perché Berlusconi, quando le cose non vanno bene, li scarica tutti. Anche Ancelotti era colpa sua se a un certo punto il Milan non vinceva tutto. E aveva in mano un Milan diverso da quello di Allegri, che era diverso da quello di Inzaghi, che era diverso da quello di quelli che sono venuti dopo. Ma voi dovete sempre separare le battute e i tormentoni dall'effettivo giudizio sulle persone e sugli allenatori. Però c'è anche il labiale allora, in tribuna di Berlusconi a Galliani. Allora, la discussione è molto interessante, ma adesso abbiamo la borsa che vi invito ad ascoltare, poi torniamo 800 24 00 24, al numero verde. Claudia Ceroni, padrona di casa, se non vedo comparire un microfono tra il pubblico non parlo più, faccio bianco per un'oretta. Allora, microfono, dotiamo aperto di microfono questa platea, torniamo dopo con Pierluigi Pardo al telefono. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Rieccoci qua da Radio City Milano, il paradiso della radio. Ringrazio la padrona di casa Claudia Ceroni che mi ha prontamente consegnato un gelato, così si chiama il microfono, e che adesso provvederò a far girare tra i convocati di oggi qui di persona. Finalmente posso guardarla in faccia, a differenza di Pierluigi Pardo che è così tanto tempo che non vedo che non me lo ricordo più. Beh, è collegato, guarda, al telefono con me però. Ciao, alto, Pier. Alto, magro. Dimagrito. Dimagrito. Come va? No, alto sì, magro no, eh. Senti, allora, siamo tutti d'accordo sul fatto che alla Juventus è andata di lusso e che l'autostrada per Cardiff, anche se non c'è l'autostrada per Cardiff di fatto, perché si va a Londra e poi a Dorso di Mulo, nella capitale del Galles, è apparecchiata. Sei dell'idea anche tu? Beh sì, però attenzione, perché Monaco è una squadra strana, è una squadra di grandissimo talento, di grandissima freschezza, di grandissima gioventù, di grande energia, quindi è una squadra secondo me che nasconde dei rischi, nasconde delle insidie, sono insidie soprattutto legate al fatto che la si conosce un po' di meno, cioè la vediamo tre settimane, chi ha premium la vede, ma insomma se la vediamo in Champions League, ha eliminato il Manchester City, Borussia Dortmund, sta facendo bene, cioè, è una realtà, è in testa al campionato francese, non è esattamente una squadra di Serie B, però è ovviamente, insomma, rispetto al Real Madrid soprattutto, secondo me è un ottimo sorteggio, prima partita fuori casa, può essere anche la partita giusta per una circostanza in cui non ci sarà che dire, perché comunque bisognerà aspettare, ripartire, soprattutto combattere dal punto di vista dinamico nel mezzo, e quindi Rincon o Marchisio può essere una soluzione quasi altrettanto valida. Bene, dai, oggi sarà bene, però attenzione, perché Monaco non scherza, l'ha già dimostrato. C'è qualche problema di linea, eh? Sì, qualche problema di linea, sì, non sentiamo benissimo, ma intanto io mi muovo e vado a cominciare ad intervistare i convocati che sono qui. A proposito, chi sta là dietro si faccia avanti, perché oggi finalmente ho il piacere di parlarci di persone, non come faccio tutti i giorni senza guardarvi in faccia. Ad esempio, ti chiami? Buon pomeriggio, mi sono Simone io. È apparecchiata la strada verso Cardiff o hai qualche dubbio? Assolutamente sì, apparecchiata. Ecco il grande rischio juventino che si affaccia. Non vi ho ancora chiesto, ragazzi, Giovanni Capuano, Franco Ordine, Fabrizio Biasin, come mi inquadrate l'altra sfida, quella del ciolismo e il comandante Che Guevara Simeone contro la grandeur dell'impero dei Blancos? Chi passa lì, Franco? Io devo dire, l'ho detto prima e azzardo anche qui un altro pronostico, secondo me questa volta ce la fa l'Atletico, intanto per la legge dei grandi numeri, poi perché mi sembra che il Real, se non ci fosse stata la scandalosa serata della sfida con il Bayern, sarebbe già andato a casa, e terza cosa perché una volta tanto anche Simeone deve vincere qualcosa. Condivido, io credo che questa possa essere la volta buona per Simeone, che si è veramente guadagnato sul campo la possibilità di giocare un'altra finale, e poi chissà di fare che cosa, magari di lasciare anche Madrid, vediamo. Giovanni, d'accordo? Allora, io penso che passi il Real. Il paradosso è che noi abbiamo parlato di Allegri, che è un grandissimo allenatore, parliamo di Simeone, che è un grandissimo allenatore, e magari in finale ci va Zidane, che è allenatore da poco più di un anno, un grandissimo gestore, che non è un grande allenatore, perché oggettivamente non è un grande allenatore, ma che però sta facendo dei grandissimi risultati. Io ti dico francamente, guarda, che se succede quel che succede domenica, io Zidane non lo vorrei come allenatore nemmeno nel mio Foggia. Cioè, se succede significa se perde il classico. No, se succede quello che succede. Ah, perché il Foggia deve Lega venire... Pro, esatto. Ah, certo, Lega, ma hai capito? Eppure, no? Zidane, sempre in bilico, sempre discusso, sempre criticato, è arrivato l'anno scorso Champions League. Quest'anno si fa campionato e vediamo come va a finire in Champions League. Però se un allenatore fa i numeri di Zidane, anche se ha una grande squadra, perché non è che gli altri hanno squadre scarse a quel livello lì. No, no. Cioè, qualche merito deve averlo. Beh, ma infatti cioè, arriverà il momento in cui riconosceremo anche a Zidane di essere un allenatore fatto e finito e non semplicemente. Ma è così, è un dato di fatto, è comunque il tecnico di una delle squadre più forti al mondo, probabilmente verrà confermato, cioè non è che stiamo parlando sì, di un tecnico sapere, a spasso. Scusate, io voglio sapere che cosa ha portato di suo Zidane in questo Real Madrid? No, non ha portato nulla, però ad esempio fa giocare Casemiro, che evidentemente, come ci racconta Filippo Maria Ricci sempre, è un'impresa che non riesce a tutti quelli che allenano il Real Madrid. Far giocare Casemiro. Sì, chissà perché metà degli allenatori si schiantano sì, su ma questa Casemiro, cosa qui. Ma Casemiro, se si toglie la casacca del Real Madrid... per strada fanno sì, fatica a riconoscerlo. No, Franco, noi sappiamo che un altro al suo posto sicuramente non poteva fare meglio, perché ha vinto la Champions, no, è primo in Liga. No, io dico questo, nella vita così come nel calcio ci vuole anche una certa dose, oltre che di fortuna, come dire, anche di protezione divina. Il problema, allora, io Allegri qualcosa ha costruito di suo, Simeone qualcosa di suo, di molto di suo, c'è in questo allenatore che viene considerato pochissimo del Monaco, c'è tantissimo lavoro. Ma tu Franco cosa diresti a Cristiano Ronaldo? Ti dico io dove stare in no, campo. Ma ci ha provato no, Benitez, non dico questo. Malissimo, eh? Ci ha provato Benitez a dire a Cristiano Ronaldo devi giocare lì, devi calciare la palla in questa maniera. E non è finito bene. Benitez ha dei problemi di linea. Però Franco, come parlo. Allora, se il Real Madrid, che è una grandissima squadra, non lo faceva andare Pellegrini, non lo faceva andare Mourinho e l'ha fatto andare Ancelotti, non lo faceva andare Benitez e l'ha fatto andare Zidane. Noi non possiamo dire che Ancelotti è un grandissimo allenatore e Zidane è semplicemente un gestore. Ovvio allora, che non è ancora un allenatore così. Della futura. Allora, facciamo così. Facciamo come nella famosa commedia di Edoardo De Filippo, quando il padre chiede al figlio Luca Rie, ti piace o presepe? E quello dice no. Allora, ti piace Zidane? No, no e no. Abbiamo problemi di linea non solo con Benitez, ma anche preconcetta. Abbiamo problemi di linea non solo con Benitez, ma anche con Pardo, a cui volevo chiedere un'opinione su quanto stiamo dicendo. Sì, anche io sto sentendo tutto, quindi non so che problemi ci siano. No, Zidane la sta facendo bene, secondo me poi ci sta che magari non piaccia come altri. Sicuramente un tocco personale sul Real Madrid non c'è, però ci sono i risultati. C'è un gruppo che quando deve fare le cose le fa bene. Insomma, queste sono cose difficili da... Non sta inventando calcio, non sta inventando nulla, però sta mettendo i giocatori nelle condizioni di fare le cose che sanno fare. Quindi questo non può essere un dettaglio, anche perché prima di Zidane comunque la gestione Benitez non stava funzionando, quindi questo va assolutamente riconosciuto. Io penso che passerà anche al Madrid, credo che sia più forte dell'Atletico e penso che sia più abituato a queste situazioni e ha oltretutto una tradizione talmente favorevole che secondo me può far diventare quasi un tabù per l'Atletico questo tipo di scenario. La partita di ritorno sarà l'ultima partita della storia europea al Calderon e sarà una roba meravigliosa, immagino. Intanto io vi annuncio che sono arrivate le nostre due superstar dei motori, ultima mezz'ora del venerdì sempre dedicata ai motori Formula 1, Moto Mondiale, Roberto Ungaro che sta controllando il telefonino in questo momento le ultime notizie e Mara San Giorgio da Sky. Siete abituati, siamo abituati purtroppo a vederla soltanto in televisione perché è sempre in giro per il mondo, beata lei. Io ho trovato invece qualcuno che dice che la finale sarà Atletico Madrid-Monaco e che la vincerà il Monaco. Eccolo qua. Assolutamente, secondo me la finale sarà Juventus-Real e la vincerà la Juventus. Sì, sono d'accordo. A lei è d'accordo perché è la tua fidanzata ed è d'accordo per, per contratto. Esattamente. Per contratto. Anche lui, lui non è il tuo fidanzato, non è, non è d'accordo per contratto? No, non sono d'accordo perché l'hai chiesto al personaggio sbagliato, secondo me. Perché, non, perché è gobbo? Ma molto, meglio non dirlo, dai, sennò facciamo, facciamo... Ah, sei tifoso del Napoli. Però ti suggerisco, chiedigli come si chiama e quando è nato, poi dopo... Come ti chiami e quando sei nato? Mi chiamo Mariano Della Morte. Sì. E sono nato il 2 novembre. Ah. Che non è una battuta. E non è una battuta. No, che però questo fatto, cioè, uno che si chiama Della Morte ed è dato il 2 novembre, augurare alla Juve di vincere la Champions League, non so se può essere presa come un fatto positivo o come un fatto negativo, fate voi. Fantastico, io mi chiamo Carlo Gente, sono nato il 29 febbraio, faccio le feste di compleanno sull'isola che non c'è, ovviamente siete tutti invitati. Allora abbiamo il traffico? No, poi ho trovato l'interlocutore giusto per parlare anche del Napoli, eh? Certo. Per parlare anche di Napoli, gufismo e tutte queste cose su cui io sono profondamente d'accordo. Cioè io sono, io e Pardo siamo due fautori del gufismo. Perché? Ma perché no? Cioè ti fa favore, diritto, ti fa contro diritto, in, il diritto sancito dalla nostra Costituzione. Tipo tutte le italiane, tipo le italiane a prescindere anche in Mitropa Cup, e ho una serie di elementi precisi che dicono che meglio vanno le italiane, meglio andranno anche le altre, che c'è un effetto emulazione abbastanza preciso, quindi credo che faccia bene a tutti che la Juve vada avanti, e questo vale per le altre, per tutte le altre italiane, però ognuno può fare quello che gli pare, cioè, non è che io sono dell'idea che non è che puoi convincere uno, cioè se uno non ha simpatia per la Juve, la vuole cupare, non è che vai lì, lo convinci razionalmente, non la vuole cupare, la vuole occupare, devi lasciarlo libero, cioè, certo, per le italiane, come è giusto, normale, populista che sia, è Giovanni Capuano per questioni di ranking, cosa a cui è molto affezionato. Adesso il traffico, state lì, torniamo subito. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Tutti convocati. Eccoci che torniamo da Radio City. Allora, tu che mi hai dato la dritta invece sul fatto che lui è napoletano, si chiami? Angelo. E tifi? Milan. Tifi Milan. Francordine, ho trovato un milanista. No, che mi fa strano. Razza protetta? Sollevagli un po' l'umore, dai, se ci riesci. Sì, no. Allora, l'umore è impossibile da sollevare. Da qui a giugno può darsi che le cose vadano un po' meglio. Dal 2018 in avanti non garantisco nulla. Sei contento? Contentissimo. Quello che mi preoccupa è se dovremmo fare il tifo con una lingua diversa. Ecco, questo mi preoccupa. Ma non ti preoccupa. Ma quello è un problema secondario. Dici. Il problema primario, come mi insegni professor Ordine, bravissimo, fa così con le dita, non si vede, soldi, per radio. Certo. Gever la moneda, come diceva il bibitaro del Palalido quando eravamo bambini e chiedevamo l'aranciata per entrare a vedere la partita. Che ver la moneda, ci vogliono gli sgay. Però non è neanche il caso di essere così negativi a priori. Cioè lo dici tu che sei interista e stai in una Ma io non ho detto da subito. Io sto parlando dal 2018 in avanti. Magari dal 2018 in avanti si sbloccano i capitali e arrivano ancora, certo, più soldi. Ma infatti io mica dico che è l'apocalisse. Dico non, punto interrogativo, cioè non garantisco. Io non è che dico che c'è l'apocalisse, ti piacerebbe, ma non c'è l'apocalisse. Però non garantisco nemmeno che ci possa essere così un altro, non dico trentennio perché è impensabile e inimmaginabile, ma almeno 5 anni di grandi soddisfazioni. Oggi non lo possiamo dire. Come? Puoi fargli una domanda? Sì, a Franco Ordine, certo? Sì, volevo chiedere una cosa, no? Visto che comunque, come dire, dall'Oriente spesso fanno tutto in casa, non è che magari è anche uno spunto per cercare dei talenti in casa nostra? Piuttosto cercare? Che dei talenti del calcio in casa nostra, piuttosto quello, che non solo sono soldi. È una strada che il Milan ha già percorso negli ultimi anni e devo dire con risultati eccellenti a giudicare da quello che abbiamo visto. Il problema è che adesso per alzare l'asticella, per salire di quota, devi mettere la benzina nel motore, sennò l'aereo non decolla. L'aereo non decolla, decolla invece quello del Napoli, sì. Ma allora tu devi dirmi, fai il tifo, hai detto passa la Juventus, sì. Vince la Champions League, ovviamente lo dici per scaramanzia, no, essendo tu tifoso del Napoli. Assolutamente, anche perché quando mi chiedono per che squadra tifi, io dico sono un napoletano intelligente, perché c'è da dire sì, non voglio fare razzista anche perché sono di lì, però stavo dicendo, ecco, i tifosi del Milan sono realisti. No, io no, credo se un tifoso napoletano è voluto. E poi io dico sempre sono un tifoso amante del bel calcio, sono anche tifoso del bel calcio. Io credo che la doppia sfida con la Juve e la sfida con Real Madrid del Napoli abbiano dato un po' alla testa ai tifosi del Napoli, che mercoledì, stavo dicendo lì, se aprite il mio Facebook, io essendo di giù, quindi ho la bacheca intasata di tifosi del Napoli, ci sono persone che ho scritto che il mercoledì il tifoso del Napoli non deve parlare, deve stare, non può fare paragoni, non possiamo paragonarci a una squadra alle top d'Europa e non possiamo paragonarci alla Juve, ragazzi, non possiamo. Io infatti insisto nel dire che il Napoli, se arriva secondo, ha fatto una grande stagione. So che ha fatto questo... un'impresa. Ha fatto un'impresa. Ma il nostro amico Pardo non è tanto d'accordo. E questo è buon segno. Su questo punto. È un buon segno, secondo te? Sì. Perché Napoli ha fatto una stagione, lui dice, buona fin qui. Fin qui buona, perché obiettivamente con quello che aveva realizzato attraverso la cessione di Higuain, tenuto conto dell'infortunio di Milik eccetera e dei soldi spesi inutilmente per Pavoletti, la stagione si può definire buona. Secondo me, se arriva secondo, allora è uscito col Real Madrid dalla Champions, è uscito con la Juve dalla Coppa Italia, obiettivamente se arriva secondo, secondo me fa una gran... Scusate, al di là del risultato sportivo c'è un dato di fatto. Era tanti anni che non si vedeva una squadra giocare così bene, così bene. E non è poco. Ecco, quando parlavamo prima a proposito della querel Sacchi-Allegri, esiste anche un altro modo agli occhi di Sacchi, di chi per esempio come me la pensa come Sacchi dal punto di vista calcistico, vedere giocare il Napoli è un godimento assoluto. E quindi è chiaro che non esiste soltanto una strada attraverso la quale fare successo nel calcio, però c'è, è come le cravatte, a te piacciono a pallini, a me piacciono a righe. A te i calzini più che altro. Eh? A te i calzini più che altro. Sì. Allora, un'ultima battuta, perché siamo quasi in chiusura di questa prima ora. Bardo, ci sei? No, non c'è. Non c'è. Oggi la linea è particolare. Oggi la linea è, speriamo poi di riuscire a parlare agevolmente con Leo Turrini. La domanda, il domandone che vi faccio, oggi è stata commissariata la Lega Calcio, quindi Tavecchio svolgerà doppio ruolo, presidente federale e presidente della Lega Calcio. Lui l'aveva detto, hanno provato a mettersi d'accordo, non ce l'hanno fatta. Quello che vi domando è che cosa farà da ora in poi il signor Galliani? Ma per il momento ha una scrivania garantita con un ufficio e anche portandosi dietro, credo, la segretaria storica del Milan a Infininvest, dove si occuperà per il momento del settore immobiliare, che a leggere i giornali di oggi sembra diventata la strategica per le casse Fininvest. Poi dopo credo che aspetterà, perché non è che Tavecchio potrà fare in eterno il commissario. Tavecchio resta 6 mesi. Quanto? Resta 6 mesi. Sì, ho capito, però cioè non so, 6 anni. No, e ma difatti, ma è anche il tempo giusto perché Galliani si allontani un po'. Cioè, Galliani non può passare dal ruolo di amministratore delegato del Milan il giorno sì, dopo. Sì, ho capito, però insomma tra 6 mesi. Perché cioè, si può far di tutto. C'è il tempo giusto. C'è il tempo giusto per preparare intanto una nuova. Un nuovo statuto e soprattutto per impedire che le piccole e medie squadre possano pensare di vivere in eterno sulle spalle delle 6-7 grandi. Allora, Fabrizio Vesini, invece chiedo chi è l'allenatore dell'Inter del futuro. Io non ne ho la minima idea, so soltanto che negli ultimi 15 giorni si sono alternati i nomi di Conte, Simeone, Spalletti, Sarri e altri 50 me li dimentico. Questo significa che evidentemente in questo momento non c'è un nome. Molti vogliono la testa di Pioli. Io dico che al di là del fatto che Pioli possa rimanere o non rimanere, ci vuole un pochino più di rispetto. Secondo me la domanda delle domande non è chi sarà l'allenatore dell'Inter dell'anno prossimo, ma chi deciderà il nome dell'allenatore dell'Inter dell'anno prossimo. Suning sicuro. Suning sicuro. Sì, speriamo, ascoltando questa volta quale consigliere. Questa volta decide lui. Questa volta decide lui. Qualcuno dovrà consigliarlo, perché sì, Suning, sui consiglieri non, siccome sono numerosi, diciamo di varie nazionalità, è meglio non addentrarci. Però sul fatto che voglia decidere lui, credo che ci sia qualche motivo in più, perché l'altra volta ha lasciato ausilio il compito e la responsabilità di scegliere. Secondo me nella circostanza ha scelto bene, adesso sceglie Suning. Benissimo, io vi ringrazio Franco Ordine, ringrazio Fabrizio Biasin. Grazie a voi. Saluti Giovanni Capone, ci sentiamo domenica. No, restiamo. Restiamo perché ho delle domande da fare a Mara San Giorgio. A Mara San Giorgio. Allora, dopo GR, come ogni venerdì, motori. Roberto Ungaro che è qui, Mara San Giorgio che è qui, Leo Turrini che è sulla Pero Gormano. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. Racing Team. E siamo a uno dei miei momenti preferiti di tutta la settimana, cioè quello in cui parliamo di motori, di moto mondiale, di Formula 1, di gare, poi anche di Cairoli per quello che ha fatto, mi hanno rimproverato gli ascoltatori per tutta la settimana. Roberto Ungaro, The Voice. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Siamo, lo ricordo, a Radio City Milano, l'impero delle radio mondiali, e finalmente abbiamo acchiappato al volo Mara San Giorgio da Sky. Ciao, grazie dell'invito. Ciao. Perché è un po' come tornare a casa. Eh sì, perché Mara San Giorgio è partita da Radio 24 e poi è arrivata all'Empireo del Circus di Formula 1. La donna che segue arriva bene, Marchionne, Alonso e tutti quelli sfigati che sono andati a muro. È per quello che sono in forma, perché rincorro tutti, non ecco. Per altro. E infatti è in grandissima forma. È in grandissima forma. Leo Turrini, ci sei? Volevo salutare innanzitutto Mara, che per quanto mi riguarda, Mara San Giorgio e Loriana Fallaci, delle giornaliste che seguono i motori, l'automobilismo, però volevo parlare con voi subito del fatto del giorno, è possibile? Sì, vai. Avete letto che Belen ha detto che Iannone merita 11 nelle sue prestazioni, allora io volevo sapere da Ungaro se è un riferimento alle prestazioni in pista o in un'altra sede. Sono molto curioso, vorrei una risposta schietta. Perché qui, insomma, tutta l'Italia parla di questo. 11. Turrini, sei bastardo dentro. Posso dirlo? Con tutto il bene che ti voglio, io ti voglio un bene dell'anima, ma no, sei bastardo dentro. Ma è vero o non è vero? Io ciao Leo, sei una certezza, eh? No, ma io sono molto irritato. Sono molto irritato con voi del motomondiale. Perché mia moglie mi ha detto, tu al massimo meriti 2. Allora io vorrei una spiegazione, un qualcosa. Belen è andato 11 a Iannone, parlava delle sue prestazioni in sella alla Suzuki o in sella a qualcos'altro? Leo Turrini, sei una certezza, la Pero Cormano e Belen. Però tu non ci parli mai della fidanzata di Alonso, che è la ex di Valentino. Ma no, questo dovete chiedere a Ungaro. Io queste cose non sono molto attento al gossip, queste robe. Aspetta che me non lo mi chiedo. Interessano. Ungaro soprattutto, può spiegarmi provato, tutto. Io... Roberto Ungaro ha provato a deludere la risposta alla domanda di Turrini. Risponde. Iannone nella vita privata va molto bene ed è molto felice. Dovrebbe 11. Andare un po' meglio nella vita professionale. Deve far vedere quanto vale. Fino adesso ha fatto solo errori. Però Iannone sappiamo che va forte e ha una moto competitiva. Non sarà in questa pista di Austin che potrà dire la sua, ma quando ritorneremo dalla seconda gara che arriverà a Jerez, perché lì allora i valori torneranno in campo, quelli che conosciamo, quelli che sono. Ma io posso dare una spiegazione, scusami maestro Genta, Ungaro ha ragione, perché la pista di Jerez l'ha disegnata un certo Rodriguez, che è un cugino stretto di Belen. Per questo Ungaro sta turlando nel manico, hai capito? Ci sta nascondendo delle informazioni riservate e questo non va bene. Io sono fermo qui sulla Pero Cormano e mi interrogo e mi chiedo, ma veramente Kimi Raikkonen è in grado di riscattare un inizio di stagione un po' incerto oppure no? Chiedetelo a Mara che sa tutto, Mara sa tutto. Lo chiediamo a Mara. Beh, vedremo, per il momento non è iniziato diciamo nel migliore dei modi, nel senso che sicuramente Sebastian Vettel si è adattato meglio a queste nuove monoposto. Io però non voglio far arrabbiare Leo, perché so... No, farlo arrabbiare, qual è il problema? Grande estimatore del grande Kimi, però diciamo che Kimi non so se è perché stia pensando alla figlia. Leo è una figlia, adesso non so se l'avevamo già detto lo scorso weekend, ma sta aspettando una bambina. È una figlia, sì. Sì, sta aspettando una figlia, arriverà quest'estate, quindi... il nome della figlia non l'ho ancora scoperto, dammi qualche altro weekend, poi scopriremo anche quello. No, lo so. Però, insomma... si chiamerà Gina. La bambina di Raikkonen si chiamerà Gina in onore di Vettel, perché ormai qui Maranello e dintorni siamo tutti spaventosamente innamorati della Gina. La Gina davanti, sì, e gli altri dietro, tutti quanti. Non so se siete d'accordo. 50-60 da quelle parti erano innamorati tutti della Gina. Gina, ma questa, per noi è una come, dice, di punto di come dice il cantore, è un'altra storia. Allora, Mara, dicevi di... Sai, lui lo chiama Yodka. Raikkonen lo chiama Yodka. In riferimento alla vodka che secondo Turrini, di cui secondo Turrini è particolarmente goloso. No dai, Kimi in Bahrain ha fatto una gara discreta, quello che gli manca secondo me è un po' la prima fase di gara che gli è mancata all'inizio di questa stagione, e ovviamente poi trovando il ritmo da metà gara in poi è un po' più complicato arrivare a podio, arrivare nei insomma dove più conta. Ha fatto bei sorpassi, dai Leo, non puoi, sarai contento, in Bahrain ci ha regalato bei sorpassi, un grande duello con Massa. Però si è svegliato un po' troppo tardi, continua a dire di soffrire di questa di sovrasterzo, non gli piace, quindi da trovare il giusto feeling con la macchina. Diciamo che in questo momento è quello che forse sta mancando un po' alla scuderia Ferrari, perché se la stagione, speriamo, va avanti come sta andando avanti adesso, quindi saranno importanti i punti, qualsiasi punto e i dettagli, diciamo che un gioco di squadra serve anche lì. Ah certo, io sono favorevole al gioco di squadra, lo sanno tutti, non capisco perché si devono fare tante storie sul fatto che fai passare il tuo compagno che è in lotta per il titolo. No, ma non è tanto quello. Il gioco di squadra l'ha fatto al contrario in Cina, che si è tenuto dietro per 10 giri Vettel. Non è tanto quello. Ha fatto un danno. È che sicuramente anche nei punti per i costruttori serve anche Kimi Raikkonen, diciamo così, diciamo la verità. Sì, certamente. Leo Turrini, comunque sei perfido, perché la domanda su Linda Morselli non la dovevi fare ad Ungaro, ma la dovevi fare a Mara. Ma io di Linda Morselli non so assolutamente nulla. Io sono d'accordo con quello che dice sempre il mio maestro a livello proprio di filosofia di vita, che è Belen, che quando parla di Iannone dice sempre che quello che conta è il rendimento alla distanza. E quindi io condivido pienamente tutta questa osservazione, e voglio dire peraltro che tutti dicono ma Raikkonen qui là, cioè, ma la Ferrari è in testa al mondiale costruttori, se poi avessimo un secondo pilota che in realtà non serve a niente probabilmente non saremmo davanti alle frecce d'argento. Ci vorrebbe secondo me anche la consapevolezza che in realtà nelle prime gare di questo campionato Kimi è stato anche non aiutato da talune scelte ai box in occasione di pit stop, penso all'ultimo Gran Premio, se no sarebbe tranquillamente arrivato davanti a Bottas, e quindi io non vedo la cosa in termini così deleteri o disastrosi, insomma, no? Un po' come la Suzuki di Iannone, basta crederci un pochino, voto 11, ci siamo. Io sto con Iannone tutta la vita, volevo dirlo, per me è un mito. Uno che prende 11 da Belen è un po' come invidia, altro che invidia, ragazzi, voi non potete capire no. Cosa Leo, proviamo, ascolta, cosa proviamo noi maschi tecniche. Italiani in crisi. Per ragioni tecniche, dato che il folto pubblico qui presente fa fatica a sentirti, ti faccio ancora una domanda e poi ti do appuntamento alla prossima puntata. Con quanta ansia stiamo aspettando la prossima corsa? E che cosa può dirci? Molta ansia, perché intanto è il ritorno nel continente europeo della Formula 1 in Russia. Sochi non è una pista in sé buonissima per la Ferrari, anche perché non è stata disegnata dal cugino di Belen, quindi Raikkonen e Vettel avranno qualche difficoltà, però io penso che la Ferrari stia lavorando molto bene sugli sviluppi della vettura. Credo che dobbiamo aspettare tra Sochi, Barcellona e Monte Carlo le prossime tre tappe per capire che estate ci aspetti. Sono fiducioso perché parlavo con Mattia Binotto, che è interista, mi ha detto: guarda, io sono più bravo di Stefano Pioli, quindi stai tranquillo, non andremo in stallo all'improvviso di botto contro il Crotone o contro la Red Bull, e penso che si possa essere fiduciosi. Sarà una battaglia ruota a ruota fino alla fine del campionato, e penso che Vettel con l'aiuto di Raikkonen ce la farà. Io sogno invece Putin che premia Kimi Raikkonen regalandogli una bocciona di vodka. Questo è il mio sogno proibito. Kimi, tu sai che Kimi in Bahrain non poteva andare sul podio perché non c'erano gli alcolici, mentre invece nella civilissima Russia ci sarà un bagno di alcol, e quindi ci possiamo aspettare qualche cosa di buono. Io vi adoro, ragazzi, cercate di farmi capire bene questa storia tra Iannone e Belen, perché ho capito che Ungaro zurra nel manico, parla della Morselli, non arriva mai al dunque, hai capito? Quindi dobbiamo cercare di essere molto, molto, molto sereni e severi sul vero punto del contendere, capito? Questa è la cosa. Vabbè, allora la prossima volta ti chiamiamo di nuovo Carletto Pernat, che ci va giù sempre duro. Grazie Leo. Ciao Leo. Ciao. Ragazzi, Leo. Un abbraccio. Ciao. Salutatemi tanto male, un bacione. Ciao. No, ciao. Sono in buona compagnia. Ciao Leo. Comunque Leo la prossima volta qua, sulla Pero Cormano in macchina, qua, che è più Maurizio Costanzo Show che una radio. Maurizio Costanzo Show, altro che. Tu lo sai, Roberto Ungaro, che Mara San Giorgio è addicted to bikes? Lei è una appassionatissima di corse di moto, ma soprattutto è un'appassionatissima biker. Me lo diceva prima, che va in moto, ma ha lavorato anche nelle moto, e abbiamo rischiato di averti anche. Rischiato, dai. No, io lo dico in senso positivo, perché insomma poteva passare di qui dove mancano due ruote, dalla Formula 1 poteva venire nel mondo del motomondiale, però hai scelto le quattro, giustamente. La passione è nata lì, il cuore rimane lì, ma la passione forte è la pista, quindi due, quattro ruote, l'importante è rimanere lì. Allora ti faccio una domanda che coinvolge anche il pubblico, perché può essere di interesse generale: tra le due e le quattro ruote, Formula 1 e moto mondiale, la sostanziale differenza che c'è, tu che hai lavorato e conosci bene entrambi? Ma secondo me è una differenza un po' d'ambiente, perché la MotoGP è sicuramente un ambiente un po' più easy, passatemi il termine, un po' più semplice, un po' più aperto anche da vivere e secondo me anche in cui lavorare, senza nulla togliere alla Formula 1, anche se effettivamente negli ultimi anni la Formula 1 è diventata un po' più elitaria, si è un po' più fredda, chiusa in se stessa, però dal punto di vista turistico forse la Formula 1 un po' più tecnica, perché la verità è un po' quella, e certo, c'è un po' più spettacolo forse in MotoGP. Le ultime gare negli ultimi anni ci hanno regalato un po' più di spettacolo in MotoGP, però e lo Iannone della Formula 1 chi è? Hamilton? No. Però si avvicina, no, perché Hamilton vince. Hamilton vince, sì, vero? Forse però sì, forse è Hamilton, vero? Sì. Piace sì. molto, sui social lavora tanto. Si piace molto, forse anche giustamente, perché è stato il primo grande personaggio che è riuscito a portare la Formula 1 fuori, al di là di questo confini. Ambiente, fuori dai confini europei, l'ha portata in America, lui si è fatto un suo giro, l'ha portata nelle discoteche, a furia di fare il pirla ha perso un mondiale come... L'ha detto Briatore, ai nostri microfoni, mica l'ho detto io, anche se ovviamente lo penso. Non so lor signori qui davanti, a proposito, quel microfono è sempre in giro, se qualcuno vuole intervenire su questi argomenti o su altri, libero di farlo, alza la mano e il microfono arriva subito. Io, parlando sempre di Iannone, so che il suo manager, che si chiama Carletto Pernat, è una vita che fa questo lavoro e ha gestito tanti piloti, Biagi, Capirossi, e mi dice che questa è veramente una tesi di laurea. Se supera questa, la gestione di Iannone, può fare qualsiasi personaggio sportivo, perché dice che è veramente difficile, perché con questa storia di Belen gli è scappata veramente la mano nei social. E poi Belen, quando arriva, si porta come fanno tutti gli argentini, la famiglia, sono in tanti, insomma, e lui, diciamo che sponsorizza molto questa già cosa. Suocero. Narra di gruppo di 10 addirittura al seguito, poi insomma. Hai capito. Del resto è Belen, quindi. Del resto è Belen, quindi tutto è concesso. Però bisogna anche mettere un freno a queste femmine che pretendono così tanto. È così, Bisogna l'uomo. Mettere un freno anche a Belen. Mara San Giorgio. No, secondo me, per carità, fatemi spezzare una lancia a favore di Belen, perché sta facendo parlare la MotoGP più di quanto magari ultimamente. Verissimo. Abbiamo detto, infatti, vi ricordate, Iannone ha già vinto, se parliamo di comunicazione, perché si parla più di lui che magari di piloti che vanno sono molto più veloci. Argentina è arrivato? Argentina ha fatto un disastro, perché giusto okay. Per ricordare. Tra l'altro, notizia tecnica, che le sue lamentele, forse in safety commission, si sta decidendo se annullare quella regola per cui se ti muovi anche di un pochi millimetri la fotocellula legge e vieni penalizzato, con una penalità che è molto eccessiva, penalizza troppo. Se ne parlerà di questo, ma tornando allo sport, notizia di ultime ore su siti spagnoli, i rumors sono che Lorenzo verrà licenziato da Ducati alla fine di questa stagione. Addirittura. Lui ha un contratto di 2 anni, 25 milioni, però il gesto, il fattaccio che si è visto in Mondovisione quando lui è caduto la prima curva e ha buttato la moto per terra davanti al Marshall imprecando, non è andata giù a Ducati. Sono solo voci di siti spagnoli, ma si dice che sarà licenziato da Ducati. C'è già un precedente di Melandri, vi ricorderete, perché Ducati ha un discorso particolare. Ducati è il marchio è molto più forte rispetto al pilota, e quindi qualsiasi sfumatura che va a ledere quello che è il blasone del marchio è una cosa che non viene accettata. Non è che hanno capito che non si pigliano. L'avvio... Perché io non posso credere che Lorenzo vincente viene licenziato per un gesto magari brutto che dà fastidio al brand, però dà tanto come fastidio al brand. Come disse la Ferrari è un camion e scese dalla Ferrari. Guarda, gli appassionati Ducati, non importa che sia Valentino, che sia Lorenzo, Dovizioso, deve vincerla Ducati. C'è un senso di appartenenza col marchio che non esiste con nessun altro brand. È una cosa che non si spiega. Marchi come Honda, che producono 10 milioni di moto contro le 50.000 di Ducati, ma il valore del brand, il senso di appartenenza che genera questo marchio italiano è una cosa davvero incredibile, e quindi ci sta questa cosa. Ripeto, sono rumors, però se ne parla. Comunque, è un po' come la Ferrari, è un po' come la Ferrari. Quando Prost disse che era un camion, la Ferrari va come un camion, di fatto certificò il suo licenziamento, perché è come andare in chiesa e bestemmiare. È come quando Nick Lauda in quel famoso film salì sulla Ferrari, scese e disse: questa macchina è una merda. Ma del resto lui in conferenza stampa, in modo molto politichese, ha detto: non ho detto niente alla moto, non ho fatto nulla, è un gesto, ho sbagliato, un gesto di stizza, allo sportivo capita, ci sta, abbiamo esempi in tutte le discipline. E questo comunque è vero, perché si chiude la vena, come si dice da noi, o si perde la brocca, in senso generale, però ci sta un gesto del genere, ma con Ducati può avere conseguenze molto più gravi che con altri marchi. Comunque lui sta facendo il vago, perché non ci vuole dire se davvero Valentino Rossi ha capito che può vincere quest'anno il mondiale. Io gli ho sentito dire una frase, ha detto: in questo Gran Premio in Texas, quello che si corre domenica, basta fare punti. Allora, se uno ha raggiunto la pace dei sensi, non fa il ragioniere così. Invece, secondo me, l'idea è che Vignales vinca, l'idea che Marquez abbia uno o due avversari in più gli fa balenare in testa che se è continuo, se fa podi, se mette due o tre botte, magari Valentino Rossi può essere competitivo. Cosa per dici, il Mara? Io dico che questo weekend per Valentino sarà abbastanza complicato, arriva nel regno di Marc Marquez, quindi insomma poi con... Quattro gare, quattro vittorie Marquez su questa pista, è una pista onda, molto larga, veloce, con la sua guida che spigola, entra di traverso, può scegliere la traiettoria con ideale. Con tante curve a sinistra che piacciono a Marc Marquez, sì, abbiamo che scoperto si allena. Che le curve a sinistra vince sempre Marquez, però sì. È un favore, io credo che sia un favore. Cioè, oggi a Valentino Rossi, in uno scenario di questa stagione, va bene che le gare le possano vincere Marquez, la possa vincere Vinales, la possano vincere in tanti, perché se sei continuo, magari se tu metti le tue due tre botte e vai sul podio, sei competitivo per il mondiale. Se fai il duello con uno che ne vince otto, forse Valentino Rossi il mondiale non lo vince più. Allora, secondo me Marquez, Vinales così forte fa un grande favore a Valentino, perché destabilizza Marquez e quindi glielo toglie dai giochi. Ma non dimentichiamoci di Vinales, che ha fatto già due centri a 50 punti, Valentino insegue a 13, ci sono ancora 16 appuntamenti, il campionato lunghissimo. Il problema è che questo Vinales non sbaglia, è bionico, cioè è diventato il nuovo il Lorenzo quando martellava, vi ricordate? Però quindi... Valentino non ha ancora cominciato. No. Non ha ancora cominciato la guerra, non ha ancora cominciato la guerra del muro, non Valentino ha ancora cominciato la guerra in pista. Valentino è più forte... psicologicamente e quindi l'esperienza lui, conterà ovviamente la testa, l'età, l'esperienza, e quindi fra i due litiganti, i due spagnoli che si contendono la fama in casa, ne approfitterà sicuramente Valentino. Hai visto che questo, è d'accordo? Sì. No, è lo scenario, è questo, hai ragione Alessandro, però il problema è che questo Vinales è in un momento stratosferico, la moto è il prolungamento del suo corpo, ha dichiarato: io vivo di moto, sono in uno stato di forma come non lo sono mai stato, e la moto è molto competitiva, infatti quella è una pista onda e Marquez sicuramente sarà protagonista, ma una Yamaha così a punto e un Vinales del genere potrebbero battagliare, cioè non è una fuga di Marquez, ma possono contendersela fino alla fine, fino alla bandiera. Capito, Mara, dobbiamo resistere. Speriamo, perché resistere. Ci stavamo lamentando che le gare di Formula 1 erano noiose, ma in queste prime gare della stagione non arriveremo mai ai livelli della Formula 1, questo no. Qui non apriamo una battaglia campale, no. Però ovviamente noi siamo per le due ruote, cioè... No, ma è giusto fare il tifo, però quando c'è ruota a ruota in entrambe le categorie, cioè, godono tutti, cioè, loro in pista ma anche chi guarda. Vabbè, comunque prepariamoci per Austin, Texas, e poi lunedì ne parliamo. Tu vai in Russia invece? Sì, martedì si parte per la Russia. La fredda Russia, speriamo, dicono, non piovosa. Mi dicono dalla tribuna 0 gradi da quelle parti. No, 0 gradi no, ma con tutta probabilità troveremo le temperature... No, neve no, perché comunque Sochi è vicino al mare, clima abbastanza temperato, ma viste le temperature troveremo, secondo me, condizioni ambientali molto simili a quelle che abbiamo trovato in Cina. C'è da dire che però ci arriviamo tutti con il sorriso, perché per quanto riguarda la sfida mondiale che stiamo vivendo in pista, la Ferrari quest'anno arriva con, diciamo, la coscienza pulita di trovarsi... Finalmente ne abbiamo una, perché ce l'avevamo fatti due maroni così di veder vincere il Moro o il suo amico. Ma di non Biondo. Aspettare, arriva la pista Ferrari, arriva la condizione Ferrari, arriva il callo, arriva il freddo, ma condizioni insomma che vanno botte da orbi bene. Su ogni pista russa compresa. Grazie ragazzi, grazie a voi. Radio City per averci ospitato. Grazie a voi. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Capuano, domenica, mio compagno 17. Della domenica, Roberto Ungaro, Mara San Giorgio, bentornata a casa, ti aspettiamo prestissimo. Appena ti becchiamo tra i tuoi viaggi intercontinentali. Quando volete. Grazie, e grazie a tutti voi. Quindi chiudiamo qui tutti i convocati. Torniamo domenica, io e Giovanni, alle 17. Ciao! Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!